Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. L'albinismo è una malattia rara, genetica, ereditaria. Infatti, quando sono nata io, i miei genitori sono rimasti molto sorpresi. Non si aspettavano che nascesse qualcosa di così bianco. Mi chiamo Agnese, ho 15 anni, vivo a Verona e faccio liceo linguistico. È il solito lunedì grigio di questa primavera che sembra un novembre. Buongiorno a tutti, sono le 16:09, quasi 10, questa è Radio 24. Il programma si chiama Voi siete qui, ormai lo sapete, se non lo sapete lo imparate oggi. Ogni giorno raccontiamo una storia diversa. Ogni giorno, attraverso quella storia, conosciamo una persona diversa. Ed era un giorno, non so quale giorno della settimana, però era sicuramente grigio, come ogni giorno di questa primavera, più o meno, quando abbiamo ricevuto un racconto, una storia e una fotografia che ha, direi, illuminato gli schermi dei nostri computer. Ed era la storia e la fotografia di Agnese. Trovate la sua fotografia, oltre che sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, come tutti i giorni, e anche sul profilo Facebook per oggi, perché è una fotografia meravigliosa e perché ha una storia abbastanza particolare. Ci sono storie molto semplici in questo programma, storie di vita piccole, storie di vita che ti cambiano la vita, e storie di vita come quelle di Agnese, che hanno un punto di vista particolare, perché hanno una vita particolare. Agnese è una ragazza di 15 anni, come ci racconta lei a breve, e lo fa molto meglio di me, che soffre di albinismo, quindi ha la pelle completamente bianca, ha i capelli biondissimi, quasi candidi anche quelli, e gli occhi molto chiari. Nella foto che abbiamo pubblicato la vedete molto meglio di me. Agnese ha fatto una cosa che in piccolo molti altre persone hanno fatto. Ha preso un suo punto debole e l'ha fatto diventare un suo punto di forza. Lo ha fatto, devo dire, molto presto, ed è stata molto brava, perché lo ha fatto a poco meno di 15 anni. In questo processo l'ha aiutata molto anche quello scatto, per questo vi parlavo di quella fotografia, perché quella fotografia ha aiutato a farle prendere consapevolezza e a farlo diventare, ripeto, un punto, quello che era un punto debole, farlo diventare un punto di forza. 349-238-6666, se avete in mano un cellulare, se avete voglia di condividere qual è stato il vostro punto debole, quello che era o si presumeva essere un punto debole e voi avete fatto diventare un punto di forza. 349-238-6666. Nella seconda parte siamo riusciti a recuperare, grazie al lavoro di Margherita Ina, direttamente da Johannesburg in Sudafrica, dove abbiamo scoperto esserci lo stesso fuso orario di qua, una persona che soffre della stessa patologia, anche se non so se è il termine esatto, di Agnese. Si chiama Refelui Modisel ed è una famosissima top model nera ma albina. E in questa intervista che ci ha rilasciato, se fosse un giornalista direi in maniera esclusiva, non lo sono, quindi dico semplicemente, in questa chiacchierata che abbiamo fatto, lei ci ha raccontato come ha affrontato l'albinismo e come è diventata di fatto una sorta di star della moda internazionale. 349-238-6666 ancora una volta per il vostro punto debole diventato un punto di forza. Questa qui è la storia di Agnese. Mi chiamo Agnese, ho 15 anni, scrivo da Verona e sono una ragazza affetta da albinismo. L'albinismo è una malattia rara, genetica, ereditaria. Infatti, quando sono nata io, i miei genitori sono rimasti molto sorpresi. Non si aspettavano che nascesse qualcosa di così bianco e puro. Come di conseguenza il significato del mio nome, Agnese, cioè pura. Sono nata, per fortuna, in mezzo a delle sorelle che mi rendono sempre più forte ogni giorno che passa. Sono la terza di quattro donne. Le mie due sorelle più grandi ormai stanno per lasciare la famiglia, mentre quella più piccola sta iniziando a capire che cos'è l'albinismo e a chiedermi come e che cosa vedo. Infatti noi albini abbiamo una visione molto ridotta, cioè vedo circa due decimi, anche se vengono peggiorati da molteplici fattori, tra i quali il nistagmo, che è un movimento involontario dell'occhio, e a volte dalla fotofobia, cioè la percezione doppia della luce. Questo però non mi fa abbattere, anzi mi rende più forte, perché con il tempo ho sviluppato molto di più altri sensi come l'udito o il tatto. Ho avuto un periodo della mia vita in cui mi sono particolarmente chiusa in me stessa. Non mi piacevo e pensavo di non piacere agli altri. Non trovavo nulla di particolarmente entusiasmante in me stessa che mi facesse dire: che bella persona che sei, Agnese.

Silvia Modio. Silvia Modio, che fa degli scatti a delle persone che hanno questa pigmentazione della pelle, giusto? Che soffrono di albinismo, corretto? Sì, lei sarebbe una fotografa di animali, poi però ha contattato mia mamma e le varie associazioni in cui siamo e ha chiesto perché non facciamo questo calendario, così poi con i soldi che guadagno magari vado giù in Sudafrica o in Africa a fare le foto agli altri bambini albini. Ok, ed è nato questo calendario che era di quale anno? Di quest'anno qua, 2013. È del 2013, quindi sì. È tutto ritrovabile in rete, immagino. Noi, ripeto, abbiamo messo questa foto straordinaria in cui ci sei tu e questo. Quindi il gatto non è il tuo, il gatto è di Silvia? Sì, è di Silvia. Com'è la tua giornata, più o meno, Agnese? Una giornata normale? Cioè, in quali cose hai bisogno di un aiuto, di un supporto e in quale invece no? A scuola. Ma a scuola ho una ragazza che mi aiuta per esempio in matematica, in cui magari la professoressa scrive sulla lavagna interattiva e lei mi scrive direttamente sul quaderno, perché per me è molto difficile vedere la differenza magari dei segni alla lavagna piuttosto che un numero che può essere un 5, può diventare un 9. Certo, perché Agnese, per chi non lo sapesse, no, una delle complicazioni che dà l'albinismo è quello di essere ipovedenti, giusto? Questa è la definizione corretta. Sì. Quindi tu di fatto vedi molto poco. Riesci a vedere le sagome? Cosa riesci a vedere molto da vicino, molto da lontano? Come funziona? Io vedo bene, cioè i contorni comunque li vedo tutti. È da lontano che ho un problema di non mettere a fuoco e quindi non definire le sagome. Comunque se sono vicina o comunque non posso che conosco, riesco a orientarmi bene. E quindi prima fuori onda la definivi la tua lettrice, giusto? Si chiama così, sì. La persona che sta, sì, con te tutti i giorni? Come funziona? Sta con me 2 pomeriggi e 3 ore in cui mi aiuta a studiare. E poi a scuola viene per esempio per matematica, per scienze, in quella materia dove anch'io faccio fatica e quindi dà una mano. Quindi insomma c'è un... Da quanti anni vi frequentate? Dalla terza media, metà della terza media. Quindi sono 3 anni, 2 anni e mezzo anni, più o meno. Sì. C'è una forma di... c'è un legame chiaramente tra di voi, una forma di amicizia, sì. Ma è più grande di te però lei, giusto? Sì, sì, ha 35 anni. Come si chiama? Ce lo dici anche così? Emma. Emma, perfetto. Cosa vuoi fare da grande, Agnese? Mi piacerebbe andare all'estero e comunque, siccome faccio il linguistico, trovare anche in comune le cose con il suo, come il suono, comunque qualcosa che c'entri il pianoforte e la musica, perché studio pianoforte. Anche pianoforte studi, non ti fai mancare, sì, niente proprio, Agnese. Agnese, sì, a fine giugno, se sei da queste parti, visto che sei di Verona, non sei così lontana, appena abbiamo deciso la data del live finale del programma, magari carichi Emma, tua mamma, tua sorella, eccetera, eccetera, e venite a vedervi la serata finale, che ne dici? Va bene. Facci un pensierino. Va bene. Grazie ancora per la storia, Agnese, buona giornata. Buona giornata a voi, grazie. Ciao, in bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie. 349-238-6666 mi scrivono. In Sudafrica non c'è lo stesso fuso orario. L'ora è la stessa perché loro non applicano l'ora legale. Voi siete qui. E finalmente ve la racconto questa fotografia. Mai fotografia fu più raccontata prima di questo momento durante questo programma. Vi dicevo, la fotografia di Agnese, che è la protagonista di questa storia, che è una ragazza albina che ha partecipato al progetto di una fotografa. Quindi questa fotografia è una fotografia professionale. La foto è stupenda perché è scattata chiaramente da un professionista, ma perché Agnese è bellissima e ha questa pelle candida, i capelli talmente biondi che sono quasi bianchi, gli occhi azzurrissimi, ha addosso una maglietta bianca e dei jeans scuri. Tiene in braccio questo gatto, che sappiamo essere il gatto della fotografa, Silvia, che invece direi che nella foto tra lei e lui è ovviamente il più perplesso, e tutte e due guardano l'obiettivo con lo stesso sguardo, un po' tra il perplesso e lo stranito. Albino, aggettivo e sostantivo maschile, affetto da albinismo. Etimo, dal latino tardo albinus, bianchiccio, derivato di albus, bianco. Data 1797. Come al solito la definizione precisa di quello di cui parliamo, grazie ad Alessandra De Luca. Fioccano i commenti sul profilo Facebook di questo programma, che è Voi Siete Qui Radio 24, riguardanti la foto di Agnese, ovviamente, è bellissima. Che bella che è. C'è anche Anna Paola, che non credo sia italiana perché scrive in forse spagnolo, parla di questa storia. E poi Cristina dice: alla fine ti ho sentita in diretta, sei coraggiosa e bellissima, spero che questo possa essere di esempio anche per mio figlio albino oculare, gli racconterò la tua storia. Questo dell'albinismo oculare, evidentemente, vabbè, per uno che non ne sa nulla come me, come al solito ne rimane spiazzato. Ma mi scrive Felice da Como: Laura, mia moglie, ferma a 40 anni, come dice lei, da qualche anno, nata con la retina albina, il nistagmo e altri problemi. Ha girato il mondo con questa sua aria scanzonata. Ha pattinato sul ghiaccio a livello agonistico in gioventù. Abbiamo fatto due figli. La amo ogni giorno di più, per come riesce a superare gli ostacoli quotidiani. PS, mi ha appena chiamato perché ha perso il bus, perché non l'ha visto. Abbiamo riso a crepapelle. Questo Felice da Como sua moglie, Laura. 349-238-6666. Si parla appunto di punti deboli che in qualche modo sono diventati un punto di forza. E siamo riusciti a recuperare il contatto di questa fotomodella, che è considerata, oltre appunto ad essere particolare per questa sua pigmentazione della pelle, cioè l'albinismo, che la rende ancora più particolare perché lei in realtà è nera. E sapete che i neri albini in Africa sono spesso visti in maniera stranita, diciamo così, nel senso che in alcuni luoghi sono considerati una sorta di demone, e ci sono quelle cose che hanno a che fare, credo, con i rituali e le tribù, che per noi occidentali sono invece semplicemente delle barbarie, per cui alcuni vengono uccisi, vengono sacrificati, insomma delle cose orribili. La storia di questa ragazza, che ha 27 anni, si chiama Refelui Modisel, che appunto ha i capelli biondi e gli occhi azzurri, anche se è nera, è una storia diversa, perché della sua diversità ne ha fatta di fatto una professione. Appunto è una fotomodella, lavora in tutto il mondo, ci sono un sacco di campagne su di lei, la trovate in maniera abbastanza facile online. Tra l'altro sul suo profilo Facebook lei ha appena scritto di aver partecipato al nostro programma, noi la ringraziamo e l'abbiamo condivisa. Eccoci qua, vi dicevo, l'abbiamo intervistata prima in modo da poter accavallare una traduzione che abbiamo fatto al volo, quindi ci perdonerete se non è perfetta. Vi ripeto, lei è una modella nera e albina, si chiama Refelui Modisel, e le abbiamo chiesto che cosa prova a vivere questa sua diversità. Diversity means being able to accept a lot. Diversità per me significa essere in grado di accettare tante cose che sono diverse da quelle che la società percepisce o fa essere normali. Quindi la diversità è l'accettazione di molte cose diverse da quelle conosciute come normali, appunto. Più di tutto è l'avere una mente aperta. Questa per me è la diversità. Io ho accettato la mia diversità sin dalla nascita. Può sembrare folle. Vengo da una famiglia dove mia mamma mi ha portata ad essere molto forte e ad essere capace di accettarmi. Io credo che quando vieni da una casa dove c'è molto amore e dove non ti separano dai tuoi fratelli o dove non ti fanno sentire comunque in nessun modo diversa, non senti il bisogno di sentirti in nessun modo diversa da te stessa, quando invece sei, ad esempio, in società. E invece è la società che sembra essere sbagliata, e non tu. Perché alla fine c'è amore e supporto nella tua famiglia. Quello che le persone non capiscono, innanzitutto, è che l'albinismo non è una malattia, non è una cosa mortale, non è nulla di tutto questo. Quello che è importante capire, innanzitutto, è che si tratta di una deficienza della pelle. Significa, cioè, che non c'è abbastanza sostanza nel corpo di tua madre, quella che viene chiamata melanina, per produrre un pigmento della pelle. Ed è quindi soltanto la mancanza di un pigmento, una mancanza di colore o di tono, per fare il tono finale della pelle che determinerà se il bambino è nero o è bianco. Una volta che capisci che cos'è, allora troverai una specie di forza, perché a quel punto sai che non è una malattia, che non è nulla di sbagliato. Quello che ho fatto è stato tradurre tutto ciò in forza, dicendomi che io non sono definita dal colore della mia pelle. La società non dovrebbe definire la gente in base al colore della pelle, ma in base al loro potenziale, a quello che hanno da mostrare al mondo. La mia forza è questa qua, apprezzarmi e insegnare alle persone che hanno la mia pelle che loro possono fare qualsiasi cosa nella vita. Non c'è niente di sbagliato in loro. Ho sofferto di episodi di razzismo, ho 27 anni e sono nata durante l'apartheid e c'era la segregazione razziale e molta tensione tra bianchi e neri. Sono nata in un quartiere dove erano tutti neri e sembrare bianca quando sono tutti neri non è stato facile. Mi guardavano e mi definivano bianca, ma non era così forte da buttarmi giù o diminuire la mia autostima. Anzi, è diventata una forza. Ci ho sempre scherzato sopra, tant'è che parlavo il dialetto e la gente era stupefatta nel vedere una bambina bianca parlare il dialetto dei neri. Quello che dico a tutti è che alla fine siamo tutti nati per avere le nostre specificità e che dobbiamo imparare a rispettare le nostre differenze. Non è questione di come sei fuori, ma di quali sono le tue qualità e i tuoi talenti e le cose che vuoi fare. Non c'entra niente l'essere giudicati o meno dagli altri. Le differenze non ti definiscono, tu devi fare tutto quello che puoi per usare al meglio le tue abilità ed essere la persona migliore che puoi essere. Ed è quello che ci ha insegnato Dio. Volevo rispondere a Giacomo che mi scrive: volevo raccontare la mia storia, ma davanti a quella di Agnese scompare. Giacomo, non è una gara chi manda la storia più bella, quindi mandami la tua storia, mandacela. Voi siete qui, @radio24.it, che andiamo avanti fino a fine giugno e il live, quando sapremo la data, ve la comunicheremo. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Pietro alla Corte, grazie soprattutto ad Agnese, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso sulla mappa. Ciao a tutti, sono Edoardo Rinaldi, ho quasi 27 anni, sono un ragazzo di Roma, la storia di domani è la mia e parla di amore e avventure e occasioni mancate. Questa è la mia storia e io sono qui.